crepare. Parlo stato con un padre sulla vita dei ragazzi della strada, perché siete tutti dei bastardi. Non ho rubato, non ho passato, non ci credi, mi hanno dato. Sta superando via per colpare mia mamma, per colpare tua mamma, ai nostri dolori insieme brindiamo col tuo bicchiere di Parmeva, col mio bicchiere di champagne. qui a Radio Onda Rossa, 15 minuti dopo la mezzanotte. Abbiamo sentito un po' di compagni e di musicisti che parteciperanno alla al concerto del 16 febbraio per ricordare Roberto Patata, redattore di Radio Onda Rossa. E quindi abbiamo ascoltato Barbera e Champagne. Noia. E poi di seguito i fan, anche Sergione dei fan, Sergetto dei fan, sarà al concerto a suonare con i Clacson, che ascoltiamo adesso. Questo è Libero, la mandiamo da capo perché Libero va anche quella un vecchio redattore di 25 O'Clock, e lui sa perché, e noi lo invidiamo anche, noi invidiamo proprio, invidia da capo. Libero, Clacson. parlavamo di nuove leve, nuove generazioni, e per cui atti vandalici, diffida e poi dannazio memorie da Fiumicino. 612,2. E ritorniamo alle vecchie cose amate da Roberto Patata. Questa è Panico, Panico, Erode, a Radio Onda Rossa, 25 o'clock da capo. 06491750, anche a mezzanotte 25 minuti. Rossa come tanti anni fa. Part two. are not human beings unless we ourselves band together and do whatever, however, whenever is necessary to see that our lives and our property is protected. And I doubt that any person in here would refuse to do the same thing were he in the same position, or I should say were he in the same condition. Yeah. Onda Rossa, 37 minuti da mezzanotte. Ancora in pista. In the Dark e poi Fratelli di Soledad. Come on. We'll be right back.

57 minuti dopo la mezzanotte, Radio Onda Rossa. E quindi vi diciamo che durante la scaletta abbiamo trasmesso Direttiva 16, Klaxon, Fan, Bloody Riot, Barbera Champagne, Nati Vandalici, 612,2, Erode, Shot in the Dark, Gang, Razza a Parte, Fratelli di Sole, da The Europeans, Ascra, Senza Sicura, Frog Legs, sotto la nostra voce. Con questo finale Rock Steady Ska. Puntata per presentare concerto per Patata, Roberto. Credo che per fine mese, insomma, quando abbiamo uno spazietto, purtroppo il mercoledì prossimo non andremo in onda e quindi non riusciremo, almeno credo, a meno di strane evoluzioni. E anche ci vuole volontà, volontà di farle le cose. Vediamo, insomma, forse a sorpresa mercoledì uscirà fuori qualcosa, benché in orario da anziani, insomma. Non ci si va più a portare avanti a quest'età la gente, insomma, la mia generazione deve riposare. Vabbè. Dicevamo, Onda Rossa 87,9 della modulazione di frequenza, all'una quasi. La programmazione, la nostra scaletta anche, ma la programmazione della radio finisce ora. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, che programmerà le repliche e le soluzioni e le selezioni musicali in forma bizzarra. Come solita fare la folle, e a noi la follia piace. Il folle algoritmo della folle compagna automatica Sonata si riprenderà in diretta domani mattina, ovvero stamattina, fra un po' di ore, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali del mercoledì mattina, fino a una pausa all'intorno dell'ora di pranzo. E si riprende dalle 14 alle 16 con Tutta Scena Cinema, dalle 16 alle 17 Attica Blues, oltre alla Black Music. 17, 18 e 30 o giù di lì, La Schiena del Sol. 20, 21, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, quella per chi è come me, che ha smesso di leggere, non legge manco più il Corriere dello Sport, anche se penso che del Corriere dello Sport ne ho comprato uno nella vita in un giorno, che non vi racconto. Forse ce l'ho ancora da qualche parte, magari non a casa mia, nascosto dentro qualche cartellina. Ma questa è un'altra storia e non ve la racconto. Ventidue. 22 e quasi 23, qui c'è scritto sul palinsesto 22-23 cuginetti di apostasia. I cuginetti non c'è scritto apostasia, ma i cuginetti ce li aggiungo io. In realtà iniziano alle 23, però da palinsesto 22-23. Il mondo esplode. Non vi abbiamo detto nulla di questo perché ce ne siamo stati nella nostra bolla. Un pochino invece abbiamo detto, non tanto noi ma i nostri interlocutori. A presto il podcast della trasmissione di questa notte. E prima di andarcene sotto la luna comunista, il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che sono costretti e costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, clandestinità, latitanza, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi di vario titolo. Quando capiremo che la libertà con la L minuscola è coincidente con la libertà con la L maiuscola, cioè quella mitologica che autoproclamiamo, anzi ci autoproclamate, non collidono per niente che la libertà è una cosa che tocca guadagnarsi giorno dopo giorno. Anche nel quelli che all'apparenza è la più libera delle istituzioni, non sarà mai troppo tardi. Ed è forse per quello che noi concludiamo con la luna comunista Under a Communist Moon. Ci piace dirla anche se il titolo è Communist Moon, eh. Quindi se la cercate è Communist Moon, ma noi diciamo Under a Communist Moon perché noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Ed è forse questo quello che intendiamo per libertà. Pensateci bene. Dai, a risentirci a qualche mercoledì più in là. Quasi sicuro con ospiti. Dai! our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.